Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Come cosa vuol dire? Ma ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Dalla bandierina è pronto Caglie con meno di 7 minuti alla fine, palla dentro, attenzione Milik, mucchio! L'Italia dei Sharawi lo serve senza guardare, grande palla per i Sharawi, nella rigore, la lascia al centro per Strootman che segue l'azione e porta in vantaggio la Roma. Arriva in Bosnia, in area di rigore, la mette per Nainggolan, 2-0 per la Roma. Al centro Dzeko e Salah, la palla è per l'egiziano che prova a piazzare e trova l'angolino battendo Fiorillo. Corre Sharawi, torna Zampano e Sharawi ridà il pallone a Salah che mette in porta il gol del 4-0. Poker della Roma con le sue saette, Salah per il Sharawi e viceversa. 4-0, cappotto. Ed eccoci qui a santificare anche questa festa. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzani in redazione. Il tema del giorno 800240024 è: cosa c'è sulla vostra griglia? Ok, va bene Pardo? Sì, sulla mia non c'è niente oggi, sì. Però è benissimo. Fantastico. È l'anno dei ponti, fanno tutti i ponti. Tutti ponteggiano, no? E pontificano. Noi facciamo il lavoro più bello del mondo e quindi come piccolo problema abbiamo questa cosa, che facciamo qualche ponte in meno, ma vabbè. Corsa al secondo posto chiusa, a meno che non esploda la Roma. Dopo aver sentito questo tipo di dopo parti, dopo Dzeko che manda palesemente in quel posto Spalletti, e poi gli dice una cosa che ho capito poco: fai ancora il furbo. Sentiamo cos'è successo dopo la partita con Spalletti al microfono di Marco Cherubini e Panucci nello studio Mediaset. Io ti ho sempre elogiato, ma secondo me personalmente hai sbagliato a toglierlo, perché è un giocatore che sta lottando per la classifica canoniere. Secondo me sul 4-1 è stata una forzatura poco corretta nei suoi confronti. No, poco corretta lo dici tu. Lo dico, sì, assolutamente. Ho capito, ma tu stai dicendo scorretta. Io ti posso dire che, essendo un centravanti, è l'unico che ho, mentre tutti ne hanno due o tre e ora ho tre partite fondamentali e vinco 4-1, posso fare ragionamento diverso, che senza di lui io non voglio giocare queste due o tre partite. Scusa, che vuol dire scorretta? Ti posso dire che hai attuato pensieri limitati da un punto di vista d'allenatore, perché poi le letture possono essere all'opposto di quello che tu pensi. Io non sono caso portatore qui di verità, ti ho solo detto il mio pensiero. Assolutamente. Ho capito, ma anch'io ti dico il mio tu pensiero. Tu mi hai detto che sono limitato, mi hai offeso. Limitati, io ho detto solo poco corretto, tu mi hai detto limitato e mi hai offeso. Ma come? Dio buono, detto mi dici che sono scorretto. Secondo me è stata poco corretta. E vuol dire scorretto, che sono scorretto. Mi è capitato, ti dico per esperienza, di giocare con degli attaccanti che lottavano per la classifica canonieri e gli allenatori non l'hanno mai tolto. Ma ho capito, questo. Lettura, ma limitato io non sono, credimi, limitato, ma io ho capito, sono. Ma tu mi dici che ho avuto un comportamento scorretto. No, poco corretto secondo me. Ma sul 4-1 tu lo togli uno e sta lottando. Ma poco corretto, aspetta, chiedo luci in studio, perché ma se no non riesco a capire. Fra poco corretto e scorretto che differenza c'è? Sarò direttivo stato scorretto, ma non mi è mai capitato che un attaccante facesse gol, un allenatore l'avesse ho tolto. Ho capito, e io ti dico, io l'ho tolto perché domenica ho il derby, poi ho il Milan, poi ho la Juventus. C'ho tre partite così, io non posso giocare senza Dzeko perché è l'unico centravanti che ho da tutto l'anno. Se facciamo un quarto d'ora faccio, più cosa cambiava? Faccio questa ma la questa tua valutazione ci mancherebbe, la tua valutazione ci mancherebbe. Scusa, Dio santissimo, se no, ma se siamo stati insieme 10 anni. Appunto! Che vuol dire? E cosa vuol dire? Non ti posso dire una cosa se la penso in modo diverso. Ma allora, se tu mi dici che sono scorretto, prima senti la mia opinione, prima mi dici, dimmi perché hai il torto, Geco, e io ti spiego la motivazione. Perché poi è lo stesso discorso per gli altri. Allora, Marco Cherubini, che eri lì... Buon 25 aprile, amici miei, buongiorno. Buon 25 aprile, sembra Pasqua. Lì c'è un arma scoperta, attenzione, nulla nasce per caso, tra i due non c'è buon sangue dai tempi dello spogliatoio della Roma. Cioè tra i due Panucci e Spalletti sì. non c'è un buon rapporto. L'avevo intuito. C'era capito, no? Dopodiché la notizia vera, secondo me, almeno non lo so, io l'ho percepita così, non è il vaffa in bosniaco che ci sta, ma è la frase piuttosto sibillina di... Esatto, è quella che ti volevo chiedere, è quella su cui chiedono, oltre a allora, chiedervi poi secondo voi chi ha ragione. Io che Geco è un ragazzo molto intelligente. E va molto veloce. Io dopo una super flash dissi: ma se non vince Spalletti va via. E lui mi disse: ma siete sicuri che non va via nemmeno se vince? Come a dire, guardate che questo ha deciso che se ne va, però non lo dice. E su quel furbo lì io ci lavorerei, perché la chiave interpretativa diventa molto più facile sul futuro di Spalletti e sul fatto che lui non rimanga alla Roma. E quindi cosa c'entra Geco con il fatto di fare il furbo? Fare il furbo perché? Per quale ragione? Perché non vuol fargli vincere la classifica marcatori? No, non è, è relativo alla posizione di Spalletti all'interno sul futuro della Roma. Perché guardate, questo fatto che Spalletti rimanga o non rimanga alla Roma condiziona tante cose. Ma sappiamo, sanno anche i sassi di piazza di Spagna che Spalletti non rimarrà alla Roma. E allora vedi che arrivi al punto, cioè dice basta e fa il furbo, di che te ne vai. Sì, ma che glielo dica in quel momento lì, non lo so, sicuramente... Va a colpire Pierluigi uno che gli sta facendo un danno, certo, e quindi rilancia dicendogli, amico mio, non fare il furbo. Il tema è sicuramente un certo nervosismo. La scelta, se posso dire, secondo me è una scelta che ci sta da parte di Spalletti. Guardate, io non sono convinto che la Roma, tu prima hai detto, corsa per il secondo posto chiusa, la corsa è tutt'altro che chiusa. Perché la Roma ha un calendario molto difficile. Sono cinque punti. Sono d'accordo con voi. Però anche lì guardate che... La Roma, la Lazio, il Milan e la Juve, ragazzi. Voglio dire, adesso sono d'accordo che il Milan, visto domenica scorsa, non è il massimo. Ma il calendario del Napoli è molto più semplice. Quindi quello sono d'accordo assolutamente con voi. Però dietro ci sono sempre delle storie mai lineari. Perché Spalletti quando dice c'ho un centravanti solo, non è che fa un'osservazione così, manda un bel messaggio alla società, cioè dice io a gennaio ve l'ho chiesto in tutte le maniere di far venire un altro centravanti, ce n'ho uno solo. È pure vero che a certi livelli io non sento, diciamo così, la necessità da parte di Luis Enrique, da parte di Zidane o da parte di Allegri nelle partite importanti quando un giocatore è caldo, di fare il turnover, soprattutto se ti stai giocando qualcosa di importante. Anche perché il numero 10 che è stato anche falso 9, ormai falso Immobile. Quello è un cambio che ci sta, e c'è un'altra cosa da dire secondo me, che insomma va bene che nel calcio non esiste la gratitudine, ma se c'è un allenatore che poi Dzeko è stato bravissimo di suo, ovviamente le qualità sono le sue, però insomma quest'anno Dzeko dovrebbe spedire una cassa di bottiglie di vino a Spalletti, perché comunque ha creduto in lui e hanno ottenuto insieme un grandissimo risultato. Il merito è di Dzeko ma è anche di Spalletti. Sì, ma guarda Pierluigi, io insomma lo frequento spesso, ho capito qual è la molla che manda in bestia a Spalletti. La molla che manda in bestia Spalletti è l'assist di Salah a Dzeko per far segnare Dzeko invece di fare un gol lui. Questa cosa lui non la tollera. Cioè, ma perché? Perché? È perché lui dice che bisogna vincere, bisogna. E i singoli fanno parte. Però balleranno anche dei soldi sulla classifica cannoniere. Sto riferendo quella che secondo me è l'interpretazione della squadra ideale da parte di Spalletti. Questa secondo me è un'interpretazione non corretta. Che lo mandano in bestia. Come lo manda in bestia il fatto che la difesa abbia delle amnesie. Quello ieri a bordo campo sembrava un invasato, stava vincendo 4-0 che sembrava l'uomo più scontento della terra. Però questo, scusate, tende... è identico a Allegri. Allegri l'altro certo, giorno con Genoa, certo, perché lui tende a portare una squadra che non ha vinto niente ad un livello di perfezione, di miglioramento, meglio, non di perfezione, ma di miglioramento, che passa anche attraverso, freghiamocene del capocannoniere Dzeko, ci avrà un modo per segnare, però ci sono anche le gratificazioni, però ci sono anche le gratificazioni personali che gli allenatori quelle po' diversi su quello la storia di Totti è evidente sotto gli occhi di tutti. No, secondo me la storia di Totti è vergognosa, nel senso che io trovo inaccettabile che venga trattato in quel modo. Poi è una mia opinione, può mandare in mezzo a Spalletti finché vuoi, però vedi che fa il paio con un certo modo di vedere le cose, poi si può essere d'accordo o meno, però l'uomo Spalletti, l'allenatore Spalletti è fatto così. Vabbè. E ti dico che dopo l'esperienza in Russia... Se permetti è un limite questo. Ma infatti nella gestione... Marco, un grandissimo allenatore, questa è la grandissimo mia allenatore... È un limite, adesso non voglio fare il difensore di Spalletti, è un grandissimo limite. Detto questo, la Roma, secondo me, per quello che penso io, poi magari mi sbaglio, è, per quanto riguarda il campionato, ad oggi una posizione più avanti di quello che il suo tasso tecnico e soprattutto la sua completezza di rosa dovrebbero dire, perché sicuramente la Roma è dietro la Juve, secondo me è anche alla fine, ma lo dico dall'inizio stagione, dietro al Napoli. Il Napoli ha più soluzioni, ha più alternative, comunque ha potuto fare mercato vero, mentre la Roma ha preso Grenier, ha un orizzonte anche economico. Però Pier, attenzione, questo è tutto vero, però c'è anche da dire che il preliminare lo ha sbagliato, è uscita dall'Europa League agli ottavi, certo, e in semifinale ha perso con la Lazio. Ma io voglio dire una cosa semplicissima, cioè secondo me Spalletti è uno dei più bravi allenatori che ci siano in circolazione a livello europeo, però per essere un grande allenatore devi essere anche un grande gestore dello spogliatoio, sì, come Allegri dimostra, Ancelotti dimostra, eccetera eccetera. Ragazzi, vi fermo. Secondo me lui deve migliorare su questo, sì, non c'è dubbio, vi fermo. Ringrazio Marco Cherubini, preziosissimo. Vai a grigliare quello che vuoi, beato te. Noi ci fermiamo per il traffico, torniamo sull'argomento subito dopo. Tutti convocati. Tutti convocati. Volevo soffermare sul labiale di Dzeko, ecco, un giocatore come Dzeko che comunque quest'anno ha segnato, ha giocato sempre, fa il furbo ancora, perché l'accusa di fare il furbo? Perché si vede, mi conosce bene, bisognava chiesto a lui, io sono un po' furbetto, guardi, secondo lei no? Secondo me sì, però sono un po' furbetto, tutti siamo un po' furbi. Allora ha detto, secondo me, se mi ha detto furbo, ha detto una qualità, avevo paura mi avesse detto peggio. Meglio furbi che stupidi, quindi. Non mi ha mandato a fanculo, no? No, vabbè. Sì? Ma... Un gesto poco elegante c'è stato. Allora lì lo vado a rivedere bene, perché secondo me poteva fare qualcosa di più. Ha fatto poco. Capito, il signor Spalletti. A me ieri onestamente mi ha divertito Spalletti. Anche a me, mi diverte sempre. No, in assoluto io sono d'accordo con quello che si dice nella parte finale con Cherubini, cioè che è per me un ottimo allenatore, e secondo me per quanto riguarda il campionato sta facendo di più di quello che gli veniva richiesto, nel senso che comunque secondo me tiene la Roma a un livello molto alto. Sì. E ci sono stati dei momenti di incartamento mediatico che io non ho capito, che secondo me non gli hanno fatto bene, ha cominciato c'è una data precisa, ha incominciato il 7 gennaio quando ci fu quella cosa della Juventus, da lì è iniziato tutto, probabilmente. Perché il suo destino è scritto non la Juventus ma un'altra parte. Luca Valdiserri, abbiamo storico inviato del Corriere della Sera, ciao Luca. Eccomi, buongiorno. Io non credo che Dzeko finirà sul trespolo di Bonucci per il derby. No, ci mancherebbe anche. Dopo gli ultimi derby che ha vissuto la Roma, ci manca solo che non metti in campo quello che ti ha fatto 35 gol in stagione. Da che parte stai? 100%, 101% con Dzeko. Con Dzeko? Ma no io, ma no io. Il bomber, che a Roma è uno solo, Roberto Pruzzi. Sì. E ha detto, la sostituzione mi è sembrata forzata. Giocavano tutti per far fare gol a Dzeko. E non c'era un centravanti di riserva da far entrare, un Totti così da mostrare per l'ultima volta a Pescara, un Tuminello da far esordire in Serie A. Addirittura la Roma è entrato Grenier e è andato a fare il centravanti in Nainggolan. Contano anche i particolari, cioè se Dzeko viene sostituito con Totti, secondo me Dzeko, come dicono a Roma, gli erode. Sì. Però no, io dico c'è così. Anche la gratificazione personale che va riconosciuta ai giocatori. Certo. Prima che Rubini diceva, se c'è una cosa che fa incazzare Spalletti è quando Salah cerca di far segnare Dzeko. Allora lì non ci siamo. Allora lì non ci siamo. Lo fa arrabbiare perché pensa che alla fine importanti sono i gol, che può contare anche la differenza reti. E io fin lì ci arrivo. Non arrivo nel momento in cui entra Grenier, che è un centrocampista, e tu togli il tuo centravanti che sta cercando in tutti i modi di staccare Belotti nella classifica. Sì, però lui dice, adesso altre partite. Sì, però lui dice io sono d'accordo con Spalletti se da adesso fino a domenica pomeriggio, domenica anzi alle 12:30, Dzeko modello Michael Jackson vive nella tenda. Tenda improbabile. Allora sono d'accordo. Esatto, sta lì fino a domenica e poi domenica gioca. Sì. Perché altrimenti ha più probabilità di farsi male in un allenamento. Il povero Vermeulen sicuramente non apposta, un giocatore a me quando era in Inghilterra all'Arsenal per esempio faceva da impazzire, una volta ha fatto male a Salah, Cesa, senza volerlo in allenamento, perché gli allenamenti sono molto più tosti, le partite di allenamento ti assicuro sono più toste di Pescara Roma di ieri pomeriggio, di 1 a 4 a 20 minuti di 1 a 4 a 20 minuti dalla squadre. Fine. No, ma esatto. Perché, anche perché come dicevo prima, credo ci siano in ballo un po' di quattrini su questa quattrini prestigio, visibilità mercato, tutte queste cose, ci sono in ballo. Poi appunto noi adesso siamo di Pescara Roma, non avrebbe parlato nessuno, ne parliamo per la sostituzione di Dzeko. Certo. Dato che Spalletti conosce alla perfezione, tant'è che si infuria un giorno sì e l'altro pure con la stampa, perché nella sua idea c'è un complotto contro di lui e contro la Roma, dato che lo sai, non cambiare il centravanti. Ma poi ti ripeto, quando vediamo tutto lo stadio e tutti a casa che sta per entrare il Grenier, Poi Dzeko, l'ultimo è Szczęsny, no? Pensi, non lo mette in porta. Poi dopo Szczęsny, quello che pensi non uscirà è Dzeko, perché Grenier non è un attaccante, altri attaccanti non ce ne hai, per cui pensi che entrerà al posto di Nainggolan. Ecco, guarda, sai cosa ti dico io? Io credo che la corsa verso il secondo posto, 5 punti, 5 partite, 5 punti potenziali, cioè effettivi, perché c'è 4 e mezzo, però sono 5 perché la Roma è in vantaggio nei confronti del Napoli per i confronti diretti. Ecco, dico, l'unico modo, l'unica speranza che può avere il Napoli è che la Roma esploda su queste situazioni. Sì. O no? Sì, però ieri devo dire la verità, poi l'avete fatto sentire 10-30 secondi fa, è stata ben gestita dopo, molto. Perché ci abbiamo riso tutti su molto, questa cosa. Molto. Ieri è stata derubricata all'episodio banale di campo e di adrenalina. Il vero punto interrogativo è interessante sentire Valdiservi, è capire se c'è qualcosa sotto questa cenere. Questo è il vero tema. Non è che Spalletti e Dzeko proprio si amano alla follia, no? Questa è un'assurdità, perché come dicevo prima, al di là dei meriti di Dzeko, ma sai, possono essere anche rapporti personali. Ma Spalletti, tra l'altro, aspetta. Spalletti ha detto anche un'altra cosa. Ha detto anche un'altra cosa, che è un rimprovero che a Dzeko ha fatto spesso. Questa cosa qui non è che l'abbia levata alla fine del primo tempo, dopo gli era pilato 5 palloni per far gol se vuole andare attizzare ancora di più o a ridare forza e numero alla classifica dei cannonieri, gli è capitato 5 palloni, per cui Spalletti ha sempre rimproverato la mancanza di cattiveria a Dzeko, eh? Guarda, io penso che, ma è un'idea mia, poi dopo prendetela come vi pare. Nel derby di ritorno di Coppa Italia, Dzeko tira fuori per pochi centimetri, ma purtroppo per la Roma tira fuori una palla dopo 3 minuti. E lì, se invece fosse andata dentro 1-0 dopo 3 minuti, magari la Roma avrebbe potuto ribaltare quel derby. Lì, secondo me, a Spalletti è ritornato il sospetto che Dzeko è molto bravo, ma gli manca qualcosa, e Dzeko ha sempre avuto il sospetto che per entrare nelle grazie di Spalletti non gli bastavano neanche un gol a partita. Poi, detto questo, è pieno il mondo, Pierluigi lo sa almeno quanto me, e di Montella che tirano bottigliette a... Io pensavo esattamente a questo, cioè, alla fine conta solo il risultato, e il risultato della stagione di Dzeko è un risultato strepitoso, per cui mi veniva in mente esattamente Montella. La Roma ha vinto lo scudetto con una dinamica e una dialettica interna pesantissima, con Montella e Capello che non si potevano vedere, con Capello che gli preferiva spesso del vecchio titolare e metteva Montella alla fine. Quando Montella entrava era talmente incazzato che spesso faceva delle cose strepitose. Quindi voglio dire, ci sono la storia del calcio è piena. La Lazio ha vinto uno scudetto con con uno spogliatoio che c'era da mettersi l'elmetto tutte le volte, quindi, che entravi, quindi, sinceramente le regole non ci sono, conta il risultato è buono. È chiaro che quella settimana lì, quelle due eliminazioni lì pesano tantissimo, sì, nel bilancio complessivo della stagione della Roma. Il secondo posto, secondo me, se arriverà, qualche modo riscatterebbe quello, alla fine sarebbe una stagione buona. Ecco, fammi fare un'ultima domanda a Luca Valdiseri prima di salutarlo. Monchi è arrivato, il futuro sarà senza Spalletti, a te piace molto Emery, e poi aggiungo, come vedresti Spalletti sulla panca dell'Inter, perché di questo si sta parlando? Sulla panchina dell'Inter lo vedrei bene, ma alla Gasperini direi, insomma, che Spalletti deve parlare chiaro se deve andare all'Inter prima, no? Cioè arrivarci se non da prima scelta, da prima scelta bis, ecco. Perché sennò, se sei quello che è arrivato perché non sei arrivato a Simeone o a Conte, non è un bel modo di iniziare. Emery penso che sia un bravo allenatore, ma penso che gli allenatori davvero bravi ce ne siano tanti in giro, e secondo me quest'anno, per esempio, quello che ha fatto Gasperini gli avrebbe meritato in un mondo perfetto una panchina di una big. Poi probabilmente questa Atalanta, se non è una big, poco ci manca, per cui 3 anni di contratto a Bergamo è un bel andare anche per Gasperini. Però io sinceramente, poi comunque io non sono mica convinto che Spalletti vada via dalla Roma, mi tengo ancora qualche dubbio, una percentuale, un 20%, sì, forse anche un 30%. Sì, vediamo come vanno il derby, secondo me la siete partita larghi, col Milan, ragazzi, e la Juve, perché se Spalletti fa un filotto in quelle 3 partite, poi ne riparliamo. Dico che secondo me Spalletti ha bisogno solo, questo è un suo limite sicuramente, di essere un pochino più al riparo da tutta una serie di situazioni, cioè lui deve fare l'allenatore. Nei momenti nei quali invece è chiaro che c'è anche un'indole, c'è anche una sensibilità all'ambiente. Io quello che dico, io non penso che l'ambiente di Roma sia un ambiente facile. Non è facile, anche perché è un ambiente pieno d'amore. È un ambiente che finisce anche per consumarti, e in questo, ovvio, no? Spalletti può avere ragione. Però in quella famosa battuta poco gradevole sullo sfigato, ecco, cioè, se stiamo parlando di questo, se veramente stiamo parlando di questo, un grande allenatore, un allenatore che fa un salto di qualità anche fuori dal campo, deve essere capace anche di isolarsi da quel tipo di situazione, di fregarsi un po' da quella situazione lì. Avete visto Ancelotti quando usciva Ribéry col busino, come dice Spalletti, no? Usciva col busino. Ancelotti è andato là, gli ha dato un bacio in fronte, Ribéry si è squagliato. È una cosa diversa. Luca, ti ringrazio, ragazzi, alla borsa da lanciare. Siamo in diretta 800 24 00 24. Poi parleremo di Inter in ritiro a Paneacqua, parleremo di un altro, di altri due casi che insomma sono spinosi, spiacevoli, sgradevoli. Sono quelli di Paolo Cannavaro e costi maledetti social network, e di De Sciglio, che è stato in pratica aggredito dai tifosi del Milan, e oggi se ne sono viste delle altre. Tutti convocati. Ascolto Gianluca perché sono socievole ma non sono social. Perché a Grosseto Radio 24 si sente bene. Perché quando corro vorrei essere un gabbiano. Ascolto Gianluca perché ci devo pensare. Perché mentre rifaccio il letto mi chiedo se anch'io sono tutta da rifare. Ascolto Gianluca perché quando mi lavo i denti penso alla mia vita. Devo mangiare di meno. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Pardo, mi dicono dalla regia che domani è un appuntamento con Totti. Che fate, cacio e pepe? Magari. No. No, domani presenta scarpe dei 25 anni di Capera, quelle che proserà nel derby, e insomma, facciamo un'intervista che va in esclusiva sulla mia pagina Facebook, frontiere della, no, frontiere veramente della, dei social network. Adesso parliamo di social network in negativo, domani invece sarà divertente, quindi alle 11.30 chi vuole si può collegare. Ripercorreremo questi 25 anni di carriera. Grande. Assolutamente straordinaria, leggendaria, basata su una fedeltà incredibile nei confronti della sua squadra, della sua città, che secondo me, ripeto, è una cosa molto bella, perché poi si può dire di tutto, no? Sicuramente, no, guarda, Totti per me è un idolo, anzi mi porti un autografo, guarda, per favore. Faccio, va bene, molto volentieri. Si possono dire mille cose sul fatto che avrebbe potuto vincere di più da altre parti, eccetera. Sì, ma fa niente, fine, idolo assoluto. Se a noi, dai, se a noi idolo, piace idolo, il calcio idolo romantico, e penso che piaccia. Ma no, ma dire calcio romantico idolo, secondo me, cioè un giocatore. Vabbè, giocatore di che stiamo parlando. Tu lo sai che io sono un feticista dei piedi, quelli di Totti. Altra cosa, non è che riesce a organizzare. Vengo a Roma, non facciamo un'intervista per Radio 24, non convochiamo. Adesso ci proviamo, dai, domani. Proviamoci. Parli, buttagliela lì, dai. Vengo a Roma, facciamo un'intervista a Totti, lo facciamo venire in studio, eccetera. Intanto domani c'è questa cosa. Chissà se le mette nel derby quelle scarpe. Io me lo auguro, darei. Sì, non ti dico una mano, ma per vederlo nel derby darei tanto. Un mignolo mi fa segno l'Avezzari. Senti, voglio farti sentire Paolo Cannavaro. Assolutamente. E quindi, secondo qualche ragionamento contorto, io ieri avrei dovuto dire all'arbitro intanto che la palla l'avevo presa di mano, nonostante ciò l'avessi presa con la testa. O per di più avrei dovuto mettere la mano al posto della testa, perché era fa passionabile, ieri mi dovevo scansare. E Meraloa, perché sono napoletano, e Meraloa, tu già capia, a voi mi serve niente, punto. Ragazzi, mi dispiace solo che in 8 anni di Napoli non avete capito Cannavaro che professionalità. Fortunatamente l'hanno capito il 95-96% dei napoletani, che sono intervenuti subito a mia difesa, e questo video è solo per voi. Non per quelli che hanno scritto quelle poche stupidaggini, ma per voi che avete scritto tante cose bellissime. E quindi vi mando un bacio e vi ringrazio veramente di cuore, da un vero tifoso del Napoli, che il Napoli ce l'ha qui e non ce l'ha qui, sulla tastiera. Grazie raga, sempre forza Napoli. Bravo Paolino Cannavaro, cresce il mio odio per i social network, il mio dubbio è, ma vale la pena rispondere a questi coglioni? Se ti va di farlo vale la pena rispondere, ma. Io ti dico, io sono abbastanza fortunato facendo le corna, nel senso non ho mai avuto grandi problemi, insomma grandi contestazioni, secondo me entro un certo limite, ne parlavamo ieri sera a cena, tra l'altro c'era Stefano Sorrentino, c'era anche Max Ardella che si occupa di social network, Pastorello, un sacco di gente, un po' di ospiti di Kitaka, e vale la pena nel momento nel quale comunque ti va, cioè, niente da fare. Se poi ci devi star male, se ce l'hai lì la risposta e ti serve anche per sfogarti, perché no? Io sono uno che, cioè, o sotto a un certo livello, secondo me, di contestazione, ma che ti frega, nel senso che qualsiasi cosa dici, pure a favore della pace del mondo, troverai quello che ti dice, però quando poi c'era quell'altra cosa non parlavi, cioè ci sarà sempre e comunque quello che vuole fare polemica per il gusto di fare polemica. Un altro meccanismo classico è che magari c'è uno che ti insulta, poi tu gli rispondi e questo qui vedi che aggiunge il post o il tweet ai preferiti, cioè essenzialmente è una ricerca di confronto. Quindi, però a me Cannavaro mi è piaciuto tanto, ma nel senso che se lui comunque questa cosa l'ha vissuta con dispiacere, e insomma io so quanto sia legato ovviamente alla sua città, ma non è che lo devo sapere, sì, io, ma non, tutti, ma no? Insomma sono cose che non vanno neanche pensate nella, vabbè, nello certo, sposo. Però, no, però, veri, però non vanno pensate, però lui secondo me ieri ha fatto una cosa comunque educativa, no, ma che, certamente, è ma è stato perfetto, però c'è della gente che si dovrebbe vergognare, così come quelli che circondano la macchina di De Sciglio e oggi si scatenano un inferno su Twitter, che io non frequento, con lo slogan libera la fascia. Ecco, tutte queste cose a me fanno impazzire di rabbia, certo. Sportiva, beh, sportiva perché le cose che mi fanno arrabbiare sono forme di squadrismo. Ecco, una cosa, proprio chiudendo questo momento qui quasi da festival del giornalismo, questo, un tema vero è che chiaramente, essendo i social network dei moltiplicatori, dei velocizzatori, sì, ma anche, commenti, anche dei paravento di però, gente, però, spesso meschina, mettici, sì, la faccia, questo è un altro discorso, però secondo me la cosa, la grande potenza dei social network è nella loro capacità di accelerare le cose, per cui sicuro, nasce una tendenza, questa tendenza si moltiplica, è un tipo di partecipazione anche molto facile, è molto facile condividere o mettersi un hashtag o insultare qualcuno dietro la tastiera, certo, bravo, ma noi lo sappiamo perché veniamo poi tutti i giorni. Oggi ci sono tante manifestazioni per ricordare il 25 aprile, che è una data fondamentale della storia della libertà, no? Allora chi va in piazza lì prende, magari piove, si sveglia la mattina perché ci crede, è un impegno vero ed è una cosa che ti costa anche un po', perché magari te ne vorresti andare al mare o a fare la grigliata. Guarda, Pierluigi, tu lo sai, me lo sai come me, perché frequenti questo studio, e allora è facile scrivere meritereste che vi venisse infilato molto profondamente fino a grattarvi l'ugola, come fa un ascoltatore, capito? Ascoltatore, vienicela a dire, discutiamone di persona, ma neanche di persona face to face, discutiamone al telefono. Evaristo Beccarossi, ciao. Ciao, Beck. Non arriva a Google, ciao, anche ciao, a tutti. Ciao. Senti, Beck, abbiamo fatto questa lunga disquisizione. Tu come sei messo con i social? Sì, giusto, il massimo giusto. Rispetto, tranquillità, non do. Cioè, così si esprime nel rispetto delle. Così ne deve essere rispetto, però non ne faccio una cosa determinante della mia vita, però come mi capita, come tutte faccio le cose della vita. Sì, no, ma appunto, ma trovi anche qualcuno, però che non la pensa come me, però insomma si va sul tranquillo, non sì, anche no, ma come tutte le cose della vita. Ci sono cose molto più importanti. Certamente, che Beck, come tutte le cose della vita, stava per dire Pardo, vanno bene con moderazione e con intelligenza. No, esiste anche un'interazione piacevole, esistono anche le persone stimolanti, commenti che fanno piacere, sono la maggioranza, la stragrande maggioranza. Quindi io per dirti, per principio accetto ogni richiesta di amicizia su Facebook, mi fa molto piacere, ma non mai così. Beck, fermati un attimo, molla il grill, traffico, sì. Poi parliamo. Voglio sentire la tua sul caso Geco, e poi parliamo dell'Inter a Paneacqua invece oggi, altro che grigliata, sono stati messi pure a dieta oltre al ritiro. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Convocati. Allora, c'è un caso che è quello di Geco, c'è un caso che è questo. Io voglio sentire quella del Beck su Geco. Allora, da che parte stai? Spalletti o chi vuole vincere la classifica dei marcatori a 20 minuti dalla fine 4-1 col Pescara? Io sto da tutte e due le parti. No, spiego due, due, allora, no. No, aspetta, dico, da giocatore mi arrabbio perché sono in lotta per la classifica dei cannonieri, quindi l'esigenza è quella di dire magari vado fino in fondo e posso fare un gol o due. Dall'altra parte uno che ragiona, che ha la responsabilità di gestire un gruppo, pensa anche alle partite dopo, anche perché mi risulta che Dzeko sia giocatore determinante per la finalizzazione del gioco di Spalletti, quindi avendo il derby e la Juve ha fatto una cosa normale, toglierlo 20 minuti dalla fine senza pensare all'obiettivo personale di Dzeko, magari per la classifica. Sì, però ti sarà capitato, saranno capitate delle partite in cui si diceva ragazzi oggi si fa segnare Altobelli da assist man, no? Eh beh, è successo, sì. Com'è normale che sia? Sì, però magari allora, a parte che eravamo in 14-15, quindi andavi fino alla fine, adesso devi gestire un gruppo di 24-25 giocatori, ma secondo me ci sta e secondo me ha fatto bene Spalletti perché pensava che il derby, quello che c'era da fare a pescare è stato fatto e ha lasciato stare l'obiettivo personale di un giocatore. E questo secondo me è forse un limite, dicevamo. Certo che quest'anno Belotti, Dzeko 25, Cardi 24, Higuain 23, Martens 22 e Immobile 20, sono tanti in lotta per quella classifica. Sì. Forse un prodotto un po' perverso del campionato strano che stiamo vivendo, no Pardo? Sì, ma poi c'è anche un ritorno, a parte Mertens, sono tutti veri nuove questi, no? Mertens è l'unico piccolo che si è esaltato nel gioco offensivo molto bello del Napoli, gli altri sono tutti attaccanti veri, quindi c'è un ritorno alla presenza in area di rigore, c'è un ritorno alla fisicità e insomma sono fasi come nell'arte, come in tutti i settori della vita umana ci sono corsi e ricorsi, fasi di tipo diverso. Questa è una fase tatticamente abbastanza precisa di ritorno all'attaccante. Il ritorno all'attaccante classico, esatto, al numero 9, non al falso 9. Evaristo, inizia il ritiro punitivo dell'Inter, dicevo. Li hanno anche messi a dieta in previsione di un Inter-Napoli e non vorrei, tu conosci bene l'ambiente di San Siro, portare quella maglietta domenica perché peserà una tonnellata. Ma che idea ti sei fatto su questo disastro? Nell'ultimo mese sì, disastro, però tu hai sottolineato i valori, sì, dalla maglia è importante quello, devi ricompattare per quello che ti interessa queste ultime gare, però ti ripeto, l'analisi va fatta un po' a monte, insomma i primi tre mesi buttati via, poi Pioli ha fatto un'ottima rincorsa secondo me fino a un certo punto. E poi probabilmente l'esperienza di un gruppo solido ti fa fare delle prestazioni che non si muovono da squadra e sono tornati fuori i problemi iniziali, quando magari tutti dicevamo che c'era un grosso potenziale, però ognuno giocava per conto suo e esatto, questa ultima domenica. Esatto. E adesso bisogna essere lucidi quando io dico calma, nelle difficoltà si deve ragionare perché c'è una proprietà che ha soldi, c'è una società. E lì do grande importanza alle due o tre persone che sono in mezzo tra la proprietà, la squadra e l'allenatore, perché alla fine sì, il ritiro conta, le azioni dure contano, però alla fine tu devi creare un feeling per cercare di andare a fare un risultato. Feeling. Io mi ricordo, e anzi ve la faccio riascoltare, era il 30 ottobre 2000, quella famosa frase di Marcello Lippi dopo che l'Inter perse 2-1 a Reggio Calabria. Io fossi il presidente, manderei via subito l'allenatore, prenderei i giocatori, li attaccherei tutti al muro e li darei di calci nel culo a tutti, perché non esiste giocare in questa maniera, non esiste nella maniera più assoluta, soltanto questo avevo detto. Il giorno dopo Lippi fu licenziato. Ragazzi, penso che ve la ricordate, no, quella storia? Sei sempre dell'idea che Pioli vada confermato per la prossima stagione, Evaristo? Ma non è che penso di Pioli. In questo momento devo cercare di ragionare dall'esterno quel poco tanto che so. Io credo che un gruppo di giocatori per fare un percorso ci sia. Chiaro che devi fare degli inserimenti importanti perché secondo me in questa squadra mancano anche due o tre giocatori di personalità che nelle difficoltà fanno capire che bisogna stringere, bisogna soffrire, bisogna lottare. Però sono tutti passaggi che devi farli adesso. Cioè, il problema dell'allenatore, di giocatori, ci sono sempre stati nelle squadre. Però la società e gli addetti ai lavori in questo momento devi fare il punto della situazione, perché vuoi raggiungere gli obiettivi. Ok, ci sediamo, vediamo dove si è sbagliato, perché quando le cose non vanno bene sbagliano tutti. È troppo semplice andare sulla cosa finale. Secondo me ci deve essere un percorso e insieme vai a fare un progetto sportivo. Sì, bisogna vedere chi si siede e cos'è quell'insieme, perché l'Inter in questo momento non è tanto una società. Certamente Pierluigi, anche vedendoli dalla cabina di commento, non fanno una grande impressione quelli che vanno in campo con l'Inter in questo momento. No, ci sono state un paio di prestazioni che sono state veramente al di fuori. Sono state, ecco, la conferenza stampa di Lippi, partite nelle quali veramente ti viene da pensare che la squadra non sia scesa in campo. Penso a Crotone soprattutto, ma penso anche a Firenze, al secondo tempo di Firenze. È un tipo di atteggiamento che non è accettabile, perché vuol dire proprio non essere presenti se stessi il secondo tempo. Non puoi prendere una quantità di situazioni di contropiede come quelle che ha preso nel secondo tempo l'Inter con la Fiorentina. Quindi la sensazione è che la squadra abbia staccato la spina. Vista da fuori, poi non conosco bene l'ambiente, insomma. La sensazione è che dopo Torino-Inter, che è stata la partita nella quale comunque prima Inter-Roma, poi Torino-Inter, che è stata una partita che di fatto ha chiuso le ambizioni Champions della squadra, ci sia stata una sorta di rilassamento. Detto questo, ieri Crespo diceva una cosa che io condivido, cioè che comunque forse c'è anche un po' di sopravvalutazione della squadra. Io ripeto, per me l'Inter è da quinto posto. Sì, la sopravvalutazione anche dal punto di vista emotivo, perché uno può essere bravo finché vuoi, ma se non ha le palle non è un grande giocatore. Secondo me c'è un po' di equivoco di fondo sul livello tecnico dell'Inter, perché secondo me Juve, Napoli, Roma e Lazio sono più avanti. Sei d'accordo, Evaristo? No, sulle prime tre sì. Sulle prime tre, Juve, Napoli e Roma, era quello che dicevamo tutti all'inizio del campionato, che bisognava fare la corsa alla Juve, che vabbè, vince da tanti anni, però era l'obiettivo di inserirsi dal secondo o terzo posto. La Lazio sta facendo bene, però non credo che all'inizio la Lazio fosse accreditata per lottare nelle posizioni alte. Perché della Lazio si parla poco, perché... Però vedi, guarda la situazione di... Pierre, la situazione di Inzaghi doveva andare a allenare la Salernitana, poi si è trovato a allenare la Lazio, si è tirato sulle belle manichine, si è fatto il suo gruppo, ha fatto un percorso importante. Io credo che quando devi andare a cercare di fare un risultato, cioè devi creare una situazione, perché se non la crei qualcuno ha delle responsabilità, perché non è che si può vivere, i giocatori sono da una parte, la società dall'altra, i dirigenti in un'altra. Se non la pensi allo stesso modo, bisogna capire perché non la si pensa allo stesso modo e vedere se si sono stati fatti anche degli errori. Secondo me, perché non c'è uno che ha l'ultima parola, Evaristo. Cioè non c'è uno che ha l'ultima parola. Io ho fatto l'esempio nei giorni scorsi dell'Inter del triplete. C'era Moratti, presidente, appassionato, che metteva i soldi, e c'era Mourinho che faceva lo schermo a tutti quanti. E così funzionava. Era sua l'ultima parola, l'ultima responsabilità, l'assunzione delle responsabilità. È classico allenatore che ti fa la società da solo. All'Inter tutto questo manca in una parola la personalità a cui tu facevi riferimento, e non mi riferisco soltanto ai giocatori. Beh, ti lascio la grigliata. Credo di sì. Probabilmente sì, perché ti ripeto, i giocatori io devo fare di tutto per farli rendere al meglio, poi come tutte le cose alla fine ti riassomme. Sì, però sì, c'è un lavoro dietro che io finché non le provo tutte questo senz'altro. Va bene, buon pomeriggio, ciao. Pardo, in una parola, perché abbiamo ancora 1:15, caso De Sciglio, come la pensi? Penso che sia una ferita difficilmente rimarginabile, e credo che De Sciglio da qualche altra parte troverà serenità e potrebbe anche pentirsi il Milan, anche se sicuramente non è una situazione facile, perché poi sono storie di giocatori che cioè il rendimento di De Sciglio non è all'altezza, questo è evidente. Non è all'altezza, lui, ma insomma, è poco sereno, un giocatore che sembrava un predestinato, probabilmente è stato caricato di un eccesso di responsabilità da subito. In maniera diversa mi ricordo un po' Santon, come tipo di, no? Sì. Come quei giocatori che subito arrivano e sembrano dei fenomeni e fanno cose fantastiche, vengono molto pompati. De Sciglio è un bravissimo ragazzo, ha un ottimo carattere, forse sì, ha bisogno di andare da qualche altra parte. Un europeo giocato splendidamente, non si è giocato un'era fa, ma soltanto la scorsa estate. E quindi poi San Siro ha questa tendenza a giubilare i giocatori in maniera definitiva. Grazie Pier, ci sentiamo domani. Ciao. Allora, ci fermiamo per il giornale radio e torniamo dopo. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli. Tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Te vuoi stare seduto in panchina a guardare? O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti! E andiamo! Tutti convocati. Dunque, state con noi perché anche oggi, 25 aprile, siamo in diretta. Mi fa molto piacere che Pietro e Francesco abbiano mollato il grill per farci un attimo di compagnia. 800 24 00 24. Poi parleremo anche di un mercato che è di fatto già cominciato. Pietro, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, volevo dire la mia su Zecco Spalletti. Sì, prego. Nonostante Spalletti non mi è simpatico, questa volta devo stare dalla sua parte. Deve stare perché, dalla sua parte. Sì, perché prima dell'obiettivo personale di Dzeko c'è l'obiettivo di squadra. Se Dzeko è così forte, visto che c'è anche al fantacalcio, mi fa due gol con Lazio, Milan e Juve, siamo tutti contenti. Sì. Tra l'altro saluto perché sono qua in un parco dove ci saranno penso 20 grigliate. Io ho finito di lavorare adesso e vado ad aggiungere. Guardi, con tutta la nostra solidarietà possibile, si diverta. Grazie, grazie Pietro, grazie. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, innanzitutto buon 25 aprile. Buon 25 aprile anche a lei e a tutti quelli che ci stanno ascoltando, che magari chiamando 800 24 00 24, il numero verde. Dica. Allora, io intervengo per il Milan. Sì. Due cose, due questioni. Allora, De Sciglio secondo me è un ottimo terzino destro che troppo spesso si è sacrificato giocando a sinistra, dove è capitato che abbia fatto, insomma, ha delle lacune giocando a sinistra, c'è poco da fare, ma a destra è un ottimo terzino. Io la penso un'altra allo stesso modo, però è stato bruciato da San Siro. Dica. È dovuto proprio alla mancanza di altruismo che hanno alcuni giocatori in quelle partite, cioè si trasformano, cercano di risolvere la partita personalmente, come l'ultima domenica, intestardendosi, dribbling, non dando la palla. E noi non siamo quella squadra che può risolvere le partite così. Il Milan è una squadra che deve lottare, sudare ed essere altruista su ogni pallone. Non so se siete d'accordo. Sì, certamente, visto che la qualità non è quella che è, come ha detto in un impeto di sincerità, rispondendo a una domanda di Carlo Pellegatti Montella, dove cosa devo fare con questa squadra più di quello che stiamo facendo. Sì, questo è vero, però ripeto quanto ho detto ieri. Montella alla vigilia aveva chiesto furore, ha ricevuto in cambio gli occhi del pesceresso da parte dei giocatori. Saluto e ringrazio il mio amico Carlo Laudisa dalla Gazzetta dello Sport. Ciao, ciao. Viva il pesce azzurro. Come? Viva il pesce azzurro, non il pesce letto. Sì, è pesce azzurro, bravo. Senti, no, era un po' di vitalità, perché poi, è evidente che no. L'ascoltatore non è un problema solo del Milan, no, no. La Juve perché è grande? Perché ha la disponibilità di tutti ad aiutare. Perché non, bravo, non molla mai, ma sì, ma come tutte le grandi squadre, e ha la disponibilità, come ho detto molte volte, cioè, o la bravura di Allegri in dubbia nel convincere le sue stelle a rinunciare ciascuno a qualcosa a favore, a beneficio della squadra. Ecco, perfetto. Ma nella querella Spalletti-Dzeko da che parte stai? Ma devo dire, mi sembrano due piccole storie, nel senso che Spalletti è coerente, lui non si preoccupa dei singoli, guarda l'obiettivo finale però Carletto, questo è un limite, soprattutto se vuoi allenare una grande squadra, i giocatori, le esigenze dei giocatori e delle esigenze dei giocatori devi tenere conto, eh. Vai ad allenare Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, o magari, come capiterà l'anno prossimo, Icardi, ma va all'Inter. No, poi, no, Spalletti. Ma allora, io credo che adesso, se come credo, adesso non credo di ripercussioni odierne, ma Spalletti, capendo di aver esagerato, sicuramente cercherà di allentare la tensione con Dzeko. Sì. E mi auguro che la chiuda in fretta, perché è evidente che altrimenti passa la parte torto, no? Io credo che questo episodio si incastoni comunque in maniera casualmente strategico per leggere anche quali saranno poi effettivamente le scelte di Spalletti. Perché se Spalletti, come ha fatto capire sabato, ha lanciato un messaggio di riavvicinamento per il rinnovo, allora è chiaro che deve fare pace con Dzeko. Se invece vuole andare via, non se ne importerà più di tanto. Sì, beh, se diciamo quella frase sibillina di Dzeko, hai fatto ancora il furbo. Prima avevamo sentito Pardo e Valdiseri che davano un 20-30% di possibilità a Spalletti di rimanere. Bisogna vedere a questo punto anche come la pensa Monchi, che è appena arrivato, no? Sì, sì, infatti, perciò io sto legando questa cosa, perché ad essere sincero, Dzeko in questa stagione di opportunità di andare in gol ne ha sfogliate tantissime, e tante volte senza nulla togliere la sua qualità, che conosciamo tutti. Quindi se poi Spalletti non gli concede di andare a incrementare il suo bottino nello spezzone di Pescara, non dico che sia una ritorsione, perché e sottolinea anche come nel primo tempo, se voleva pensare a Cresceva Canoniere di palle, ne ha avute 5. Tante volte. Spalletti ha rimproverato a Dzeko la mancanza di cattiveria agonistica. E quindi non è che deve sempre essere poi Spalletti a aiutare Dzeko. Ecco perché io devo dire, nonostante quelli difetti a cui fatto cenno tu di Spalletti li riconosca, in questa vicenda tutte le ragioni a Dzeko non le do, perché poi un po' viziatello sembra che sia il ragazzo, no? Sì, sì. Ascolta, ragazzo non è neanche più. Non è più, è un grande giocatore, lo era anche l'anno scorso quando veniva preso a Pomodori. Oggi la Gazzetta apre con questa offerta del Milan a Donnarumma, 3,2 milioni di euro a salire più la fascia da capitano del Milan. Si scrive però che ci sono le due di Manchester e Real Madrid pronti a dare un ingaggio da top player a Gigio. È chiaro che se, almeno questo è il mio pensiero, la nuova proprietà si presenta cedendo in questo momento il giocatore più amato dai tifosi, il nuovo simbolo del Milan, non si presenta benissimo. No, in questo momento si sta giocando una partita di nervi, delicatissima, perché tutto cosa nasce, perché l'approfondimento che abbiamo fatto oggi, che ho suggerito, è stato proprio questo, dopo le frasi di Mirabelli nel post-Empoli, che aveva chiaramente divaricato la voglia di Donnarumma di restare dalla volontà di Raiola di portarlo via. e quindi quella era la spia di una rottura diplomatica a serio rischio. E infatti cosa abbiamo scoperto? Che nel contatto, nel primo contatto c'è stato fra Raiola e Fassone, la gente ha preso tempo e soprattutto ha vincolato la trattativa ai rinforzi. Cioè lui vuole vedere i rinforzi del nuovo questo Milan, l'aveva capire quanto questo. Questo l'aveva già detto. No, ma l'aveva fatto sapere in passato, ma gliel'ha detto e soprattutto non si è voluto sedere al tavolo. Sì. È questo che ha fatto capire al Milan come evidentemente la partita parte già in maniera negativa, perché è chiaro l'indisponibilità di Raiola ed evidentemente di Donnarumma, nonostante poi il ragazzo a Mirabelli abbia detto no, ma io voglio rimanere. Sì. Quindi non è semplice questo nodo da sciogliere. Non è semplice, ma ce ne sono anche degli altri, ad esempio il rinnovo di Suso e poi questa storia di De Sciglio che a me offende perché che venga linciato in questa maniera con i soliti social network un ragazzo e un giocatore come De Sciglio a me offende. Sì. No, non solo te, perché è ingiusto, non solo, vabbè, a parte alcune espressioni. Anche l'episodio di domenica nel dopogara è da condannare, perché comunque De Sciglio cosa gli si vuole imputare? È comunque in nazionale, è un giocatore che non ha mai... Tra parentesi, in nazionale, come ricordavo prima, ha fatto un grande europeo, tra parentesi. Quindi gli farà molto bene cambiare ambiente e andare alla Juventus, tu mi dici? Probabilmente, perché l'estate scorsa è stato a un passo al destino della bianconera, da lì c'è stata la rottura con il suo manager Branchini, Galliani e Berlusconi. Adesso vedremo quale sarà l'atteggiamento con la nuova proprietà. I segnali non portano nulla di buono. No, ma fa benissimo, farà benissimo andare via. E qui però ovviamente la nuova proprietà trova una situazione già, un solco già segnato, no? Quindi è una situazione tutta da leggere Carletto, con difficoltà. La nuova proprietà dovrà abituarsi a queste situazioni, perché San Siro di giocatori ne ha bruciati fin troppi. Un'ultima cosa, Borsino-Panchina-Inter. Borsino-Panchina-Inter è pieno di soldi, ma i preferiti hanno altro per la testa per ora. Non è una situazione semplice, perché appunto è vero che Conte ormai si è dileguato, Simeone c'è una speranziella, vogliamo usare questa espressione, ma finché non finisce il percorso di Champions League non si potrà capire. E in questo balletto vediamo appunto se Spalletti è ancora d'attualità, che è l'unica soluzione italiana al momento, compatibile con le ambizioni della proprietà cinese. Però è una situazione non meno semplice, perché le milanesi vogliono cambiare tanto, ma stanno trovando delle difficoltà che erano in parte prevedibili, ma altre si stanno presentando emergendo improvvisamente. Grazie Carlo, grazie alla prossima. Ciao Carlo Laudisa. Facciamo un salto in Inghilterra. Si gira, offre ancora ad Hazard, sul sinistro Hazard, supera anche Diego Costa, poi offre a Matic che spacca, traversa e porta e fa 4-2 per il Chelsea e forse porta il Chelsea in finale di FA Cup. Batte Ozil, tagliato sul secondo palo, così il Niver su Welbeck, la liscia, poi Sanchez, segna Alexis Sanchez nel primo tempo supplementare. Tancredi Palmieri, super inviato di Bein Sport, ciao. Buongiorno ragazzi, ma complimenti al DJ Giorgio De Luca, ogni volta stavolta i Cafabian, ogni volta la cornice, veramente. Siamo mica qui a pettinare le bambole. Il papete di Radio 24, veramente. No, la verità è che c'è Gianmarco Ferronato che è un genio musicale. Ah, ecco, senza nulla togliere a De Luca, per carità. Senti, allora il Chelsea che batte 4-2 il Tottenham, che gli sta contendendo il titolo di Inghilterra. Guardiola che fa di nuovo flop. Sì, fa veramente flop, perché noi consideriamo flop gli anni al Bayern, ma in verità lui ha fatto 3 scudetti su 3 al Bayern, 3 sciale anzi su 3 piatti tedeschi, però questo perché insomma ovviamente la, visto la qualità della rosa rispetto alle altre veniva considerato per scontato, ma è la prima volta dal 2008, c'era quando Guardiola allena tra i professionisti e non nel Barcellona B, che non poteva ovviamente salire di categoria, è la prima volta che rimarrà, perché insomma ci sarà la rimonta ovviamente, che rimarrà senza trofei nell'intera stagione. Sì, è veramente un cambio epocale. E giovedì sera si gioca l'accesso alla Champions League, alla prossima Champions League contro Mourinho, che però può entrare dall'altra porta, cioè quella dell'Europa League. Esattamente, un derby che vale appunto più per il Manchester City, però che è davvero drammatico a questo punto. C'è da dire che da un lato, non voglio anticipare i temi, ma insomma da un lato è anche la prima partita senza Ibrahimovic, ma non è detto che sia un male, perché non bisogna abbandonarsi alla retorica troppo facile del senza Ibrahimovic si gioca meglio, perché uno che accentra il gioco e uno che chiede il pallone per questo. Sì, però lui è il leone, gli altri sono i gattini. Esattamente, cioè non è un caso, c'è stato, non mi ricordo se era ieri, l'altro ieri, domenica sera, il galà del Players Player Award, cioè il premio, l'Oscar al miglior calciatore del campionato votato dai calciatori stessi. Al primo posto è arrivato Kanté, al secondo Hazard, ma al terzo posto è arrivato Ibrahimovic, votato dai calciatori stessi. Sulla cronaca, Ibra è negli Stati Uniti a farsi operare, doppia rottura del crociato, anni 35. Lui dichiara: sarò io a decidere quando smettere, tornerò più forte di prima. Gli vogliamo credere? Allora, quello è un atto di fede, insomma, su cui io ovviamente non mi posso pronunciare. Sul fatto che lui continui e voglia tornare, quello è un dato di fatto. Ci sono alcune variabili. Variabile numero uno, lui ha un contratto annuale, era in scadenza. Sì. Ora bisogna vedere se... oggettivamente dubito che il Manchester United e Mourinho facciano, come dire, questo atto basso del fare finta di non alzare il telefono. Già il contratto di un anno era emblematico, no? Sì, una stagione poi via verso altri lidi. No, non è detto, attenzione Carlo, non è detto. C'è anche da dire un'altra cosa, Raiola non ha soltanto Ibrahimovic al Manchester United, a Pogba, a Mkhitaryan, né altri, per cui non è che oggettivamente ti puoi permettere di trattarlo male. Il punto però qual è? Che lui prende 17 milioni di euro all'anno al Manchester United, e credo che il rinnovo, allora la sua volontà di rinnovo ballava sul fatto che il Manchester United si qualificasse alla Champions League, cioè lui, avrebbe valutato, non è che avesse deciso, ma avrebbe valutato di andarsene, peraltro, a giocare proprio negli Stati Uniti, qualora il Manchester United non fosse entrato in Champions League, a quel punto gli avrebbe data su. A questo punto lui dice, e anche giustamente, io non esco dalla porta di servizio, quando me ne vado non lo faccio perché non mi vogliono più, voglio rimanerci, quindi ovviamente entrare o non entrare in Champions League a questo punto è relativo. Tuttavia però il contratto nuovo che doveva essere stavolta sui 12 milioni di euro all'anno, quindi un 5 milioni in meno, e adesso bisogna vedere come sarà nel momento in cui si siedono al tavolino con Raiola, perché c'è un dato, Carlo, e questo se ho fatto i calcoli l'altra volta, ho ritrovato gli archivi e tutto, ma Zlatan Ibrahimovic da 11 anni a questa parte ha uno stipendio che non è mai andato sotto i 10 milioni di euro. Beato mai. No, lo so. Cioè, lui ha guadagnato qualcosa come... is nothing, lo so. Qualcosa come 140 milioni di euro solo di stipendi, senza... In America, dove stiamo per andare, ce ne sono tanti comunque di giocatori che prendono gli stessi soldi o forse anche di più. Grazie Tancredi Palmieri, grazie. A voi, ciao ragazzi. Perché io vado dal mio amico Marco Crespi che sta commentando i playoff NBA. Ciao Marco. Ciao Carlo, come stai? Ciao, benissimo, e tu? Molto bene. Senti, io non parto dall'NBA, ma parto dal tuo ricordo di un trentennale che oggi ricorre, quello del triplete dell'Olimpia Milano. Tu saresti entrato su quella panchina, sei stato a lungo su quella panchina, presentato su quella panchina subito dopo la finale di l'anno dopo la finale di Gand, giusto? Sì, sì, sì, esatto. Ma come... io penso che fare il tripletto allora, soprattutto non tanto collegandosi al campionato italiano e alla Coppa Italia, ma alla Coppa dei Campioni, che poi è diventata Eurolega, significava ovviamente, cioè, partecipava solo una squadra per nazione, quindi sicuramente una grande elite, ma diciamo attraverso poche partite che ti avvicinavano al tiro, al titolo. Adesso chi vince l'Eurolega veramente ha battuto tutte, al di là della formula di quest'anno, ma anche nella formula passate, cioè per vincere l'Eurolega dovevi aver battuto almeno 15 avversari del tuo livello. Sì. Mi riferisco a 15 per quest'anno, sì, è chiaro, chiaro. Qualcosa di diverso, no, è totalmente diverso. Altra epoca, infatti, sono passati 30 anni. Esatto. caro mio, esatto. Senti, invece NBA, Cavs e Warriors, le due grandi favorite, sono le, anche le prime due a passare il turno, cappotto cucito addosso a Indiana e Portland rispettivamente. Cappotto che aiuta a indicare ancora di più le due favorite, anche se tutti i playoff sono veramente bellissimi, perché credo che la qualità dei giocatori, ho letto un articolo di un giornalista americano che diceva ma pensate se Paul George di Indiana può essere solo forse a fatica entrare nei primi 10 giocatori che giocano oggi in questa stagione l'NBA, significa che il livello qualitativo è elevatissimo, ed io credo anche che a livello di esecuzione di squadra ci siano sempre, nei playoff sempre stato sempre squadre che giocano con idee, questo è molto bello da vedere. Alcune sì, altre meno, secondo me, Marco. Per esempio, Cavs un po' meno rispetto ad esempio ai Warriors, che hanno Steve Kerr a questo punto non più in panchina. Steve Kerr, che ricordiamo con il triangolo di Phil Jackson in campo come guardia, però Kerr bloccato dal mal di schiena. Io credo che tu saresti andato in panchina anche in barella, penso se che ti conosco lì, bene, e ti conosco sì. bene. Sicuramente, però penso di non aver fortunatamente mai avuto un problema serio come quello che ha in questo momento Steve Kerr. E tornando alla tua domanda, i Warriors giocano sicuramente meglio dei Cavs, anche per un semplice motivo: i Warriors hanno 4 giocatori stelle. Penso che nessuna squadra negli ultimi 10 anni ha avuto 4 giocatori di quella grandezza. Dall'altra parte c'è il più forte, perché oggi si discute chi sarà l'MVP tra Harden e Westbrook, ma il più forte può essere antipatico, può fare anche LeBron, il team proprietario, ma è assolutamente LeBron, è indiscutibile da un punto di vista non solo fisico, non tecnico, nemmeno. Anche mentale. Marco, una cosa sola, quanto può pesare l'assenza di Kerr, onestamente, del coach? Il sistema è avviato. L'anno scorso la stagione del grande record era stata senza Kerr in panchina. Io credo che non tanto da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista che era un grande saggio del tenere gli equilibri umani, avendo un giocatore come Green che sicuramente ogni tanto può alterare questi equilibri, Kerr può mancare, da un punto di vista tecnico no. Grazie Marco, alla prossima. Grazie, ci sentiamo presto. Ciao. Grazie Marco Crespi, con cui chiudiamo questa puntata del 25 aprile. Per ritrovarci domani Giovanni Capuano, gli cedo la poltrona, perché dopo Pasqua, Pasquetta, primo maggio, 25 aprile, poi sarà anche primo maggio. Insomma, fatemi fare una grigliata anche a me, ragazzi. Gianmarco Ferronato in regia, Giorgio De Luca, il nostro autore, mi fa le corna, Giorgio De Luca. Ma che vuoi? Edoardo Lavezzari in redazione, a domani. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti!